Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'Adico di Mestre. Un saluto a Gianluca Codognato. Ciao Francesco, saluto ai radioascoltatori. Allora, caro Gianluca, parliamo di gas metano per il riscaldamento, anche perché è praticamente finita la stagione del freddo e quindi iniziamo ad abbassare, come dire, i riscaldamenti delle nostre case, però dobbiamo iniziare a fare i conti con le bollette. Sì Francesco, per fortuna sta arrivando il caldo per molti aspetti, perché devo dire che quest'anno insomma la bolletta è stata abbastanza alta per gli utenti, per le famiglie, e oltretutto abbiamo proprio cominciato una battaglia, diciamo, come Adico, proprio perché le ultime bollette che ci hanno portato, riferite a gennaio e febbraio soprattutto, molte persone sono bollette stratosferiche e bollette magari dopo, diciamo, nella chiusa finale, bollette nella quale la tassazione è veramente fuori controllo e può essere anche il 40-45% dell'intera bolletta, a volte anche superiore ai consumi. Beh, detto questo, diciamo che appunto abbiamo avuto sicuramente un 2016 abbastanza impegnativo sul fronte del riscaldamento, è stato un inverno sicuramente più freddo di quello precedente. In ogni caso questi dati, che sono elaborati da SOS Tariffe, non tengono conto comunque di gennaio e febbraio, dove comunque c'è stata un'altra botta di soldi per le bollette. Allora guardiamo un attimo come regione, possiamo definirci la regione in cui sono stati effettuati un po' dei consumi medi rispetto al resto d'Italia, medio-alti. Noi ci fermiamo sostanzialmente a un 1209 metri cubi a famiglia, per una spesa che viene calcolata da SS Tariffe di 914,76 euro per chi è nel mercato tutelato, e invece di 942,40 euro per chi è nel mercato tutelato, e invece 941,94 euro per chi è nel mercato libero, quindi anche un leggero risparmio per quanto riguarda il mercato libero. Questo è chiaramente il calcolo che fa SOS Tariffe. In generale le regioni che hanno speso di più sono regioni tipo il Molise, dove addirittura le famiglie sono andate a sborsare cifre che arrivano attorno ai 1500 euro, siamo sui 1474 euro. Molto più fortunati, quindi in fondo alla classifica, invece troviamo la Basilicata, dove sono stati consumati 1500 metri cubi per una spesa di 800 euro circa a famiglia. Quindi vediamo che in realtà abbiamo in testa il Molise e come ultima regione la Basilicata, una cosa un po' particolare. Le zone in cui si è registrato il maggior consumo sono quelle cosiddette appenniniche. Ecco Francesco, abbiamo fatto una parentesi sì, riferendoci poi ai costi, ai consumi, ai risparmi calcolati come media appunto da SOS Tariffe. Se dobbiamo fare delle considerazioni dal punto di vista di Adico, l'abbiamo denunciato in tutti questi giorni e continueremo a farlo, noi riteniamo che invece soprattutto a inizio anno nuovo, quindi nei primi mesi del 2017, stiamo arrivando delle bollette che veramente non hanno, in molti casi non hanno senso. Abbiamo ricevuto la richiesta di aiuto e di informazioni da tantissima gente in queste ultime due settimane, da quando abbiamo denunciato il fatto che vediamo delle bollette in cui la tassazione, quindi IVA più accise, supera molte volte il consumo del gas. Perché capisci che, Francesco, che in un periodo in cui poi le famiglie pagano già tasse ogni cosa che fanno, in ogni cosa che fanno, scoprire, perché probabilmente hanno scoperto adesso grazie alla bolletta 2.0 che il 40% di ciò che pagano per le bollette va in tasse, secondo me non aiuta certo il feeling tra cittadini e governi. Sono assolutamente d'accordo, quindi è bene che insomma quello che è un utilizzo fondamentale, cioè potersi riscaldare per stare bene e poi non ammalarsi e avere altre conseguenze, insomma sono delle cose che dovrebbero avere il minimo, se non zero, di tassazione. Sì, per l'idea qua di Francesco, che comunque chi ci governa adesso, onde evitare qualsiasi tipo di populismo, però sembra insomma che cerchi di prendere i soldi ai cittadini dove è più facile, quindi sulla casa, sull'auto e a questo punto sulle bollette. Però come dicevi te, le bollette, la luce non è uno sfizio, è una necessità, è un obbligo, quindi far sì che a causa di questo obbligo insomma la gente sia costretta a pagare tasse addirittura fino al 40%, ricordiamo Francesco che i consumi domestici hanno un'IVA agevolata al 10%, quindi non si arriva a giustificare che su una bolletta io mi ritrovi veramente, questo abbiamo notato in più bollette, veramente più tasse accise che consumi reali di materia prima. Qua noi abbiamo intenzione di scrivere al garante, stiamo già predisponendo con il nostro ufficio legale, speriamo veramente che anche tutte le altre associazioni comunque si uniscano in questa battaglia, una battaglia che potremmo dire abbassa le tasse sulla bolletta, potremmo chiamare così, e che penso che dovrebbe essere portata avanti con forza, perché la gente, soprattutto adesso che si trova a pagare soprattutto le bollette del gas, veramente non ce la fa, e scoprendo che su una bolletta da 1000 euro 500 euro sono per imposte IVA, devo dire che le persone si scocciano parecchio, insomma, E ha ragione. Mi viene in mente anche il costo dell'acqua, ma questo è un altro capitolo di cui magari parleremo e affronteremo prossimamente. Grazie a Gianluca Codognato, ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Alla prossima puntata. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.